Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro. Questo ha prescritto il Signore: chiunque della casa di Israele uccida nel campo un toro o un agnello o un capro, o chi lo uccida fuori del campo e non lo porti all'ingresso della tenda del convegno per farne un'offerta al Signore davanti alla dimora del Signore, quell'uomo sarà considerato reo di sangue, ha sparso sangue e sarà eliminato dal suo popolo. Perciò i figli di Israele, invece di offrire i loro sacrifici in campagna, li porteranno al Signore all'ingresso della tenda del convegno, al sacerdote, e ne faranno dei sacrifici di comunione al Signore. Il sacerdote spargerà il sangue sull'altare del Signore che sta all'ingresso della tenda del convegno e brucerà il grasso come odore gradito al Signore. Non faranno più i loro sacrifici ai satiri, ai quali essi si prostituiscono. Legge eterna sarà questa per loro e le loro generazioni. Dirai loro: chiunque della casa di Israele o fra i residenti in mezzo a loro offra un olocausto o un sacrificio e non lo porti all'ingresso della tenda del convegno per offrirlo al Signore, sia eliminato di mezzo al suo popolo. Chiunque della casa di Israele o fra i residenti in mezzo a loro mangi del sangue, mi volgerò contro colui che mangia il sangue e lo toglierò via di mezzo al suo popolo. Infatti la vita dell'essere vivente è nel sangue e io lo do a voi per espiare all'altare per le vostre vite. Il sangue, infatti, in quanto vita, espia. Per questo ho detto ai figli di Israele: nessuno fra voi mangi sangue, e neanche il residente in mezzo a voi mangi sangue. Chiunque fra i figli di Israele o residente in mezzo a voi prenderà a caccia un animale o un uccello che è lecito mangiare, ne sparga il sangue e lo ricopra di terra. Infatti la vita di ogni vivente è il suo sangue, in quanto esso è vita. E io ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessun vivente, perché la vita di ogni vivente è il suo sangue, e chiunque ne mangia sia eliminato. Chiunque, oriundo del paese o residente, mangi di un animale morto e sbranato, sciacqui le sue vesti e si lavi con acqua, sarà impuro fino alla sera e poi sarà puro. Se non sciacquerà le vesti e non si laverà, porterà il peso del suo peccato.